Ma ha detto Teresa. io capire, ma io per esempio nella mia scuola lo posso mandare, però lo dovremmo vedere prima io e la prete, pure la dirigente, capito? Quindi lo posso far proporre anche io a scuola, però bisogna conoscere non è che Teresa ha tanto. detto che tra qualche giorno lo posterà sul gruppo disabilità, come ho compreso io. Certo, dice che ce lo vuole fare vedere, praticamente ce lo condividerà e poi Angelo penso che senz'altro anche tu, perché credo che diciamo lei, questo evento parlava che si faceva nel pomeriggio perché la mattina comunque loro fanno comunque normalmente scuola, quindi magari non so, potresti anche eventualmente partecipare anche tu, trovarti anche tu. Ci tiene più alla zona sua, capito? Questo non l'ho capito. No, anzi, no, No. diciamo è un'iniziativa che ha fatto partire dalla sua zona, perché diciamo è un'iniziativa che è partita dalla sua scuola con la sua preside, per il discorso di questo bambino. Hanno pensato di estendere, di fare una visione in contemporanea per tutte le scuole di pianura, vabbè, che sono elementari e medie, che noi abbiamo solo elementari e Quindi noi ci potremmo credo che collegare. comunque la tua idea vada benissimo da lì. Devi solo mettere d'accordo con lei e vedere un pochino come organizzarlo. Ha una, come dire, anche una diffusione più larga, più estesa. Certo. Va bene. Ok, ragazzi, io diciamo C'era volevo. un'altra cosa che dicevate. No, niente, mo Angelo, se Con la noi. scalena. Sì, il fatto Diciamo della. che quella Se. mamma che c'ha quell'altro bambino sempre disabile nella tua scuola che Ma sembra pianura. formerà un comitato. Sì, Sembra pianura. diciamo sempre la scuola di Teresa. E poi alla fine niente, vogliamo cercare un modo per fare acquistare per la comunità quest'altalena per i disabili. Esattamente, eppure è una bella idea, però là bisogna vedere, capire se sarà il comune, che il comune pure potrebbe attivare No, questa vabbè, bella. bisogna capire se si farà una raccolta benefica, se parteciperanno le istituzioni, vabbè, è tutta una cosa ancora embrionale come cosa. Già è solo l'idea adesso. Perché a me il mio sogno era pure avere come dire, ogni comune un parco, diciamo, quantomeno attrezzato, pure con delle attrezzature adatte anche in base, proprio, cioè, monitorando la disabilità che hanno il proprio comune, quindi adeguando anche il parco giochi per me questo pure mi piaceva come idea, non so se no, che ne Diciamo pensi? quello che non vedo in Italia, cioè ho visto invece in tutti i parchi dove vive mia moglie, cioè dove vive mia suocera, Cioè, di cui stai parlando? spazio dove ci sono questi giochi scivoli che si arrampicano i bambini, messi nella ghiaia. Invece che messi su queste mattonelle, diciamo gommose, fanno Vabbè, sembrare ma far male. quello così dovrebbe essere, però qua c'è anche la pittura, qua teniamo un po' anche le mamme che se lo devono mangiare, sai, nella sabbia, nella ghiaia, sono Vabbè, molto ma io vanno. dico la ghiaia, quella là di fiume non è come la sabbia che si sporca. Ma sono molto pulite fuori e molto sporche qua, nella mentalità. Non so se mi hai sentito. Sì, no, ho sentito il tuo discorso. No, è perché no, io ti parlo proprio che si sporcano, si sporcano, li hanno, perché io penso che Vabbè, io proprio facevo un fanno. discorso di sicurezza, comunque. Un bambino Proprio che fanno. cade da un'altalena e cade finire nella ghiaia. Ah, sopra le mattonelle, non so se. Certo. Vabbè, Diciamo. questa è un'altra problematica ancora più da affrontare, diciamo. Niente, però questi non sono proprio adeguati, capite? Non c'è un parco che sia, come dire, no? Che abbia una strutturina pensata per la disabilità, quindi questo è grave. Sì, questo è. Questo è grave. Allora, capite, farlo entrare anche nella mentalità regionale, in modo che anche tu possa agire sui comuni. Dobbiamo, però, questo ma è giusto, per entrare nella problematica, sempre capire se in questi punti ci sono una cosa si può attingere, se l'Europa possiamo fare, perché poi l'Europa abbiamo sempre questo svantaggio, capito, dei famosi progetti, quindi se tu capiti chi te lo fa bene, il comune è buono, riesci a Però, ottenere. comunque, per discorso di Teresa, il comune stanzia a livello sociale, quindi disabilità, che penso questa tematica dell'altalena, penso che rientri tranquillamente in quello sociale di più. Intorno a 98-100 milioni di euro annui. Quindi, sì. Diciamo, dato che nascerà questo comitato gestito dalle mani, visto che questi fondi vengono stanziati attraverso dei progetti, al massimo pensavo, di aiutare la mamma a strutturare un progetto da presentare al comune come comitato che loro costituiranno per chiedere questa benedetta altalena, visto che comunque ci sono dei fondi stanziati a livello sociale anche. Sì, è pure una buona idea. Vedo che comunque rispetto al bilancio mi sono scaricato un po' dal sito del comune, alcune cose vengono fatte degli aggiornamenti sul bilancio, quindi anche se sono spese non previste al bilancio vengono comunque aggiunte. Sono state fatte nel 2015, anche negli ultimi mesi. Possiamo parlare di una cifra proprio minima rispetto ai soldi che loro. Anche questa è un'ottima idea, pure questa. Ragazzuoli, che dite, Ma c'è vogliamo? un'altra cosa che il Comune di Napoli ha realizzato, non so quanto funziona, che si chiama Laboratorio Napoli. Diciamo dovrebbe essere un contenitore di idee a livello di cittadinanza attiva e di iniziative dove entrano parte attiva proprio i comitati e le associazioni che ne farebbero parte. E in questo ho scaricato anche il regolamento. Non so se questo è solo sulla carta oppure ancora una proposta reale. Bisogna capire ragazzi, che Aiano mi mandate. Certo, Angelo, Fabio, vogliamo allora adesso diciamo chiudiamo la Skype web per quanto riguarda la disabilità e poi dopo diciamo ci aggiorneremo lunedì cioè con questa nuova Skype web oppure con Google Hangout relazionandoci con i portavoce per avere un po' diciamo queste risposte a queste domande che abbiamo inviato circa un po' l'utilizzo, cioè la disponibilità, se c'è disponibilità per quanto riguarda i fondi. Ma anche come Skype. Sì, mo praticamente Angelo facciamo in questo modo qua. Allora, nel frattempo, diciamo, noi salutiamo per quanto riguarda la nostra riunione della disabilità. E praticamente chiudiamo anche la registrazione e ci aggiorniamo quindi per lunedì alle 15. Quindi o poi ci risentiremo sempre tramite Skype oppure sul Google Hangout di cui adesso noi andremo a fare praticamente una prova tra di noi perché mi ha detto Luigi Cirillo che comunque lui ha già in questo suo canale su Google Hangout. Che è comunque similare a Skype come modalità di diciamo di utilizzo. Ok, allora io adesso chiudo qui Presto. chiudo la registrazione.